Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti a Questa casa non è un albergo. Benvenuto ad Alberto Pellai, che oggi in via eccezionale non è in studio con me ma è in linea. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Faccio il coinquilino a distanza. Beh, potrebbe essere una buona idea, no? Una nuova professione. Una nuova professione. Senti Alberto, oggi una puntata che fa di nuovo luce su quella che l'anno scorso veniva definita emergenza. Parliamo di bullismo. Cosa sta succedendo nelle scuole? Come lo si sta affrontando? Questo è il tema della puntata di oggi. Sì, ci sono davvero tantissime iniziative in corso. Credo proprio che aver poi usato una parola così grande come la parola emergenza abbia stimolato tanta creatività e molta voglia di prevenzione. Si fa prevenzione non solo nelle scuole ma anche sul territorio, e quindi oggi abbiamo selezionato alcune esperienze che secondo me sono molto interessanti. Alberto, se tu sei d'accordo, io partirei da una lettera che ci ha inviato Manuela. L'ascoltiamo e poi ci riflettiamo insieme. Sono stata per un anno segretaria di una scuola privata e lì c'era un ragazzo difficile preso in giro dai compagni. Un giorno avevano il tema in classe e lui non riusciva a concentrarsi. Così l'ho portato in segreteria ed insieme abbiamo analizzato il testo del tema, che era la canzone Piazza Grande. L'ho aiutato a decodificarlo e lui ha personalizzato il tema prendendo 7. Ma la cosa non è finita lì. A maggio gli ho regalato il libro Diario di scuola di Pennac. E lui si è isolato a leggere le 5 pagine che secondo me calzavano alla sua esperienza. Il direttore e i suoi compagni lo hanno sempre preso in giro. Lui però non ha mai mollato e ha continuato imperterrito a leggere le pagine che gli avevo indicato. Alla fine, quel ragazzo sul quale nessuno avrebbe mai puntato una lira e di cui i professori si lamentavano sempre, si è diplomato con 75 su 100. Questa è la mia esperienza. Cosa ne pensate? Alberto, ringraziamo innanzitutto Manuela che ci ha fornito con la sua mail degli spunti molto interessanti e ci dice una cosa essenzialmente, che il bullismo viene vinto con l'aiuto di tutti, insomma l'indifferenza dell'ambiente è quella che genera cronicamente il problema. Sì, Manuela ci ha fatto veramente un regalo, perché tra l'altro ci ha mandato questa mail dopo aver ascoltato il professore Rep e il preside antibullismo che usava Cuore Pinocchio, che noi abbiamo mandato in onda lo scorso sabato. Manuela però ci dà proprio anche una lezione, perché lei come segretaria di una scuola ci dice che si è mossa tra le aule, nei corridoi del suo ambiente di lavoro con un occhio attento, indossando proprio un paio di occhiali, che era in grado di decodificare il disagio laddove si trovava. Ha fatto davvero, penso, un piccolo miracolo con un ragazzo che senza il suo aiuto, oltre che vittima di bullismo, avrebbe potuto essere uno di quei tanti numeri che vanno a aumentare le statistiche di abbandono scolastico, bocciatura o dropout scolastico. Emanuela ci dice che bisogna coinvolgere tutti dentro una scuola nella lotta al bullismo, non solo gli studenti ma anche i professori, gli ausiliari, il personale tecnico e, perché no, le segretarie. Alberto, intanto però ci sono tante iniziative che tutte sono orientate verso la prevenzione dell'emergenza bullismo. Sì, una molto bella è nata a Padova. Io mi ci sono un po' imbattuto quasi per caso, l'ho trovata davvero interessante. È cominciata l'anno scorso con un'idea di far conoscere ai ragazzi frequentanti le scuole la realtà degli adolescenti che si trovano in un carcere minorile, e tra l'altro da questa prima iniziativa è poi gemmata una nuova iniziativa che è stata proprio presentata 2 settimane fa per la prima volta a Padova, legata a un video per la prevenzione del bullismo. E allora lo facciamo conoscere anche a noi, che ne dici Alberto? Mi sembra un'ottima idea. Andiamo. Hai visto l'altro giorno Franz quanto è presa? È andato con la ragazza di Luca e Luca gli ha spaccato la testa contro il muro. Ma si potrebbe fargli anche una vendicazione, andare contro di lui, insomma. Hai capito? Quando è successo? 2 giorni fa. Un brevissimo estratto, Alberto, proprio che ci dà un po' il polso, no? È stato realizzato questo progetto molto interessante, ne parliamo con il dottor Lorenzo Panizzolo, che è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Dirigente dei servizi sociali del Comune di Padova. Dottor Panizzolo, Alberto ha visto il vostro baby boomerang e ne è rimasto molto colpito. Sì, confermo. Il dottor Pellai ci ha onorato la sua attenzione e insieme abbiamo con un gruppo di cittadini, è stato presentato circa 15 giorni fa. Questo DVD parte da un'idea di raccontare, di proporre la legalità, l'educazione civica ai ragazzi nelle scuole. Abbiamo cominciato con un progetto importante che ha portato 1000 studenti all'interno del carcere, la casa di reclusione di Padova, in piccoli gruppi per conoscere gli operatori, il giudice, per parlare con quei detenuti che volevano mettere davanti a loro, dovevano presentare le loro storie consapevoli degli errori fatti. Quindi da questa lezione della legalità siamo passati poi a delle interviste nel carcere minori del Treviso. Ho intervistato 5 adolescenti che hanno anche qui raccontato le loro storie. L'ulteriore passo è stato questo DVD realizzato, Baby Boomerang, raccontiamo la storia di un piccolo bullo, perché alla fine di una fragilità questo ragazzo adolescente dimostra tutta la sua fragilità e gli abbiamo giocato un brutto tiro. Lui si caratterizza per fare il gradasso, il violento con altri amici nei riguardi di vittime selezionate oculatamente, e gli abbiamo giocato il tiro che sua sorella è stata a sua volta colpita da una baby gang, e lui ha dovuto suo malgrado esercitare un'energia opposta a quella della baby gang per liberarla, e si è reso conto, l'immagine finale, gli occhi di questo ragazzo dicono tutto, che questa è una strada che deve essere assolutamente evitata. Sì, è interrotta. È interrotta, ovviamente. Alberto. Ma guarda, il video mi ha molto colpito perché ha, proprio come avete fatto sentire voi in quei pochi secondi del breve estratto, ha dentro questo ritmo quasi caotico dove suoni molto martellanti si alternano a queste parole in cui il bullo organizza la propria azione di potere sugli altri ragazzi, e c'è questa fortissima concentrazione inizialmente sull'azione, cioè sul progettare azioni che fanno male agli altri, sul guardarle dentro al computer, e poi tutto un po' si rallenta usando anche il ritmo del battito del cuore, si entra nel silenzio di una casa dove effettivamente si vedono genitori che non riescono a entrare in contatto, ecco, in contatto profondo con i propri figli, e poi tutto poi esplode in questa situazione finale dove il potere che credevi di esercitare sugli altri ti si ritorce contro. Tutto fatto in modo, secondo me, poco retorico, molto vicino un po' anche al linguaggio dei videoclip dei ragazzi, e sollecita molte molte emozioni e credo di conseguenza poi anche molti pensieri. Questa casa non è un albergo. Veloci, siamo tornati in linea, abbiamo Alberto Pellai, il dottor Lorenzo Panizzolo, stiamo parlando di un cortometraggio, Baby Boomerang, ideato dal Servizi Sociali del Comune di Padova. Se volete visionare questo cortometraggio potete andare sul sito www.padovanet.it. Alberto, può essere anche un invito per i nostri ascoltatori a scriverci per la prossima settimana le emozioni e le loro riflessioni. Sì, direi che possiamo proprio sollecitare da una parte chi lavora in una scuola, o se c'è qualche adolescente che ci ascolta potrebbe proprio far fare una visione di gruppo alla propria classe di questo video e poi raccontarci che genere di dibattito ha suscitato, che genere di reazione emotiva ha suscitato. Lancerei anche l'idea di dire ai nostri ascoltatori se hanno proprio storie invece di bullismo da raccontare, cose che nonostante l'emergenza e la prevenzione che si sta facendo di conseguenza, nonostante tutto il lavoro preventivo, se tuttora ci sono vicende, storie, scuole che non riescono a dare risposta alla vittima di bullismo, allora raccontatecele, perché sarebbe bello tornarci con una nuova puntata della nostra trasmissione. Dottor Panizzolo, nel vostro cortometraggio lasciate aperta una speranza. Cioè che è quella che l'affetto familiare del ragazzo per la sorella minore, no, fa scattare in lui quel senso di protezione che lo fa, gli fa abbandonare il suo essere bullo, ma attiva in lui, no, dei meccanismi che sono assolutamente contro il bullismo, protettivi e preventivi nei confronti del bullismo. Ma viene sottolineata anche l'assenza presenza dell'unico genitore che si vede nel film. Sì, per certi aspetti è molto didattico il DVD, abbiamo inserito tutte le cose che ci devono essere, che magari mancano, sono lacunose. Quindi abbiamo fatto ben presente che la famiglia è un luogo fondamentale, ideale per ragionare, per prevenire qualsiasi comportamento, e infatti il DVD mostra una mamma distratta, molto interessata alla TV e a dare delle mance senza particolari scrupoli. Certo. Ecco, abbiamo messo questo ragazzo che cerca il dialogo, perché il ragazzo cerca il dialogo, non lo trova in famiglia e si scatena un po' all'esterno. Per giocare un ruolo efficace abbiamo pensato di giocare questo tiro mancino al ragazzo e così fargli capire che non ne deve fare agli altri quello che ha sofferto, perché si capisce che soffre molto e questa difesa, il video a un certo punto dà anche una forte incertezza sull'esito finale, però abbiamo voluto dare una chance positiva, siamo anche stanchi di vedere cose sempre che vanno storte. Bravo. E abbiamo ragionato sul finale, c'è una piccola tecnica anche di suspense che il regista Bisatti ha sapientemente dosato. Alla fine comunque prevale decisamente il buon senso, la forza del ragazzo che è consapevole e che spero sia vaccinato e come lui molti altri a non seguire questi comportamenti che dimostrano poi una fragilità. Anche in carcere a Treviso ho ragionato con questi ragazzi intervistati, sono veramente fragili. Allora io vorrei salutare il prossimo ospite che è in linea con noi, il dottor Maggi, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi l'abbiamo chiamata perché voi avete da poco messo a punto un intero sito di prevenzione del bullismo, Smonta il Bullo. Sì, è il sito della campagna nazionale contro il bullismo del Ministero, noi siamo curatori io e Elena Buccoliero. E quindi abbiamo risistemato insomma tutto il sito che sia più funzionale e soprattutto usufruibile per tutti, no? Il problema è che c'è tantissimo materiale in Italia, ma come al solito un po' in Italia c'è un rischio di frammentazione. Dottor Maggi, lei ha fatto parte della commissione nazionale che è stata predisposta proprio per l'emergenza bullismo. Riusciamo a fare un po' il punto della situazione? Che cosa è stato fatto? Che cosa manca ancora? Che direzioni si stanno prendendo? Ma io credo che insomma da quando è esploso un po' il discorso del bullismo in Italia mi colpisce insomma che nel 2001, cioè, gli articoli sui giornali erano pochissimi, adesso no, nel tipo il 2007 Repubblica ha 107 articoli solo sul bullismo, cioè, quindi c'è stata un'enfatizzazione dei media. Allora, concretamente, cioè, quello che si è fatto, nel senso sulla campagna nazionale contro il bullismo, è che si sono nati degli osservatori regionali, quindi all'interno del sito Smonta il Bullo si può vedere nella parte del link degli osservatori tutto quello che è stato fatto in Italia attraverso gli osservatori regionali. Adesso c'è una commissione nazionale, di fatto venerdì 23 e 24 ottobre, in questi giorni insomma c'è un convegno nazionale a Milano proprio che dal titolo I moderni predatori sul bullismo, sulla commissione nazionale del bullismo e del disagio. Di fatto vengono svolte, come diceva anche Alberto precedentemente, insomma tantissime iniziative. Il rischio a volte è un po' come una frammentazione, anche se c'è una grande ricchezza in Italia, no? Cioè, su questo aspetto. E quindi vengono fatti interventi di sensibilizzazione, di formazione, progetti che hanno anche durate insomma anche consistenti di 3, 4, 5 anni, oppure anche la costruzione di, come si è visto prima, insomma con dei video, del materiale che stanno, insomma, che possono essere utilizzati all'interno delle scuole sul piano didattico per sensibilizzare. Credo che sotto l'aspetto della sensibilizzazione sia stata fatta, forse manca un po' in Italia, nel senso un intervento che va a lavorare su dei piani macro sistema più più grossi, insomma, e quindi però questo purtroppo è anche un discorso di spese, insomma, di investimento, no? E quindi in Finlandia, per esempio, ci sono progetti che lavorano per 4 anni a livello nazionale. Noi, certo, di fatto abbiamo questa ricchezza di frammentazione, ma dall'altra parte si rischia che ognuno va per la sua strada, insomma, e quindi le università vanno per la loro, i comuni, gli enti, le fondazioni bancarie, insomma, il ministero in questa ottica credo che, almeno io dall'esterno come esperto che si occupa di bullismo, vedo che sicuramente sta facendo una campagna, insomma, di sensibilizzazione, di dare strumenti anche gratuitamente. Il sito Smonta il Bullo di fatto è uno strumento in cui tutti possono accedere e vedere che, per esempio, cioè, ci sono bibliografie, filmografie, progetti, linee guida da poter scaricare, insomma, video, teatro. Un aiuto per genitori, insegnanti, per tutte le persone che ruotano intorno al mondo dell'adolescenza. Sì, sì, sì, è proprio per questo. Cioè, l'obiettivo era quello di permettere agli insegnanti, agli operatori, ai genitori di avere in mano, senza troppo, insomma, se penso solo in Italia, io quando ho iniziato a occuparmi di bullismo c'erano circa 3 pubblicazioni, adesso siamo arrivati a 120 pubblicazioni. Allora, Alberto, noi abbiamo nella puntata di oggi presentato 2 iniziative su cui puntiamo, come Questa Casa Non È Un Albergo, giusto? Sì, assolutamente, proprio voglio dire proprio anche ai genitori che, tra l'altro, il sito Smonta il Bullo ha tantissime risorse che possono direttamente essere usufruibili da loro con i loro figli, anche i bambini più piccoli. Allora, noi torneremo a parlare di bullismo proprio perché oggi abbiamo buttato un piccolo semino, abbiamo dato agli ascoltatori, ai genitori, degli strumenti, abbiamo dato un sito, abbiamo segnalato un DVD. Noi torneremo a parlarne e tornerà a parlarne anche Pieraceci, che è qui in studio con me per la prossima settimana. Piera, ciao. Sì, torneremo a parlarne la prossima settimana anche in obbligo di frequenza, perché questo ovviamente è un argomento che riguarda moltissimo la scuola. I ragazzi sono a scuola ed è lì anche purtroppo che si manifesta molto il fenomeno del bullismo. In particolare però ci soffermeremo sul cyberbullismo, che purtroppo è molto in crescita, cioè quel bullismo che è poco conosciuto ed è poco riconosciuto come tale, che si manifesta attraverso Messenger, attraverso i cellulari, attraverso la rete, eccetera. Ne parleremo e vi faremo soprattutto ascoltare anche che cosa è il cyberbullismo attraverso 10 corti fatti molto bene, realizzati in 2 scuole di Milano, una scuola media e una scuola superiore, e a cura di Nicola Iannaccone, il dottor Nicola Iannaccone. Sono veramente interessanti, le faremo sentire, così sarà anche gradevole, insomma, come trattazione. Alberto, ne parleremo anche noi la prossima settimana in Questa Casa Non È Un Albergo, con le storie, le esperienze, le testimonianze dei genitori che possono mandarci alla essere benessere@radio24.it. sottolineeremo anche un altro aspetto: in questo periodo si parla molto di omofobia e cosa correla questo fenomeno con quello del bullismo. Ne parleremo la prossima settimana, Alberto, vero? Certamente. Allora ringraziamo il dottor Marco Maggi, il dottor Panizzolo per essere stati con noi, speriamo di avervi prestissimo nostri ospiti, e intanto grazie per quello che state facendo. Buona giornata da Nicoletta Carbone, da Alberto Pellai e da Maria Piera Ceci.